una tegola è nata come Gesù bambino. Anna ha cambiato il suo nome, Anna ama il vino, ultima di 13 figli, per la rara riccio tra scogli. Anna non parla più di tanto, ma il suo dire è sempre un bel canto. Fata dalle mani bucate, dalla luce delle patate, Anna abbraccia il mondo e te lo serve su un piatto d'argento. Anna profuma la strada, ad ogni passo lei semina vita. Anna ti riempie il cuore di amore, di amore, di amore, le mani sempre pronte a sfaccendare la casa, veloce più di una gazzella. Anna è una bella donzella, Anna non ci pensa due volte. Quando ha qualcosa in mente, lei sbotta come una trottola, ma poi gli passa come niente. Fata dalle mani bucate, dalla luce delle patate, Anna abbraccia il mondo e te lo serve su un piatto d'argento. Anna profuma la strada, ad ogni passo lei semina vita. Anna ti riempie il cuore di amore, di amore, di amore. Anna non porta i calzoni, ma è lei ad avere i coglioni. Non ama strisciare, cucire. Il sole del mare, dalla vita non ha avuto figli, ma lei è la madre dei gigli che regala ad ogni passante, e lei regina turchina splendente. Fata dalle mani bucate, dalla luce delle patate, Anna abbraccia il mondo e te lo serve su un piatto d'argento. Anna profuma la strada, ad ogni passo lei semina vita. Anna ti riempie il cuore di amore, di amore, di amore. Un occhio vispo di furbizia, Anna ha litigato con l'avarizia, le tasche piene di limoni. Anna è una donna di cuore, Anna in due minuti cucina piatti prelibati, ma il suo meglio è di essere al mondo una stella che illumina il vento. Fata dalle mani bucate, dalla luce delle patate, Anna abbraccia il mondo e te lo serve su un piatto d'argento. Anna profuma la strada, ad ogni passo lei semina vita. Anna ti riempie il cuore di amore, di amore, di amore. Thank you.